perse nella nebbia, un uomo domanda e poi dove si va? Forse con te resisterò alla furia del vento che mi spinge via fino all'abisso. Call.